a questa presentazione del libro Il Bracconiere, che è stato scritto da Valentina Musmeci, che con noi ringrazio questa sera, fotografa, insegnante di lingua inglese, molto curiosa ed è una amante anche della montagna, è stata membro della giuria anche del Trentino Film Festival, quindi è un'esperta anche non solo della montagna ma della narrazione, della descrizione, del racconto, e la ringrazio. È accompagnata questa sera da Franco Faggiani, giornalista, ma anche lui autore di numerosi libri. Qui abbiamo appunto un saggio di quelli che sono, di quella che è la sua produzione. Ringrazio il nostro ospite di aiutarci in questa serata. Valentina l'abbiamo conosciuta telefonicamente, è stato un approccio così movimentato, ma è stato come tutti gli approcci con delle connessioni strane, non ci si riusciva a parlare, poi alla fine siamo riuscite finalmente ed è stato un piacere appunto scoprire anche questa parte legata alla narrativa. Il libro è appunto Il Bracconiere, l'abbiamo anche su suo suggerimento inserito in questo periodo, proprio in coincidenza di quelle che sono le manifestazioni in favore, diciamo, delle donne, chiamiamo così questa festa, questo anniversario che ricorre ogni anno 8 marzo, ma perché ci sono accanto al protagonista comunque due figure femminili molto forti ma molto significative anche di quella che è la loro battaglia, consapevolezza e trovata consapevolezza e battaglia di una riscossa, di una riappropriarsi in maniera consapevole di quello che è il proprio destino e finalmente riuscire a forgiarlo liberandosi da delle dipendenze che non sempre sono volute ma spesso forse sono anche frutto di un processo culturale in cui ci troviamo inseriti e siamo un po' anestetizzati, no? Non ci si rende conto di scivolare poi in un sistema. E quindi è vero che c'è un protagonista maschile, che è Bruno, che è il cosiddetto bracconiere, ci sono le montagne, c'è tutto in questo romanzo ed è perfettamente descritto con anche una grande sapienza ed è molto avvincente, però nello stesso tempo è il pretesto per parlare di queste due donne che spiccano nella loro così personalità, nella narrazione. Io non aggiungo altro, lascio subito la parola ai nostri due ospiti. Sulle sedie troverete anche il programma di 4 serate che in questo mese ci saranno fino ad aprile e dedicate proprio alla dipendenza affettiva nel mondo soprattutto femminile. Grazie ancora ai nostri ospiti e buona serata. Grazie a lei, io mi ritaglio un ruolo piccolissimo perché ci ha detto un sacco di cose interessanti che avrei dovuto dire io e quindi mannaggia non so dove aggrapparmi adesso in realtà. Mi sentite? Si sente, ok. Quindi grazie innanzitutto dell'invito, sono molto contento di parlare di questo libro perché normalmente io vengo presentato e non presento, questa è, credo che sia la prima volta che presento un libro di un altro ed è la seconda volta che lo presento, giusto, e devo dire che mi piace molto perché è un libro fatto bene. Io ho un po' di dimestichezza con i libri fatti bene perché io non li faccio bene subito, ci metto un bel po' e quindi mi fanno dei mazzi allucinanti finché arrivi alla perfezione. Questo invece è un libro che trovo bellissimo e quindi sono molto contento di presentarlo. All'inizio mi sono detto ho la vita facile perché ho visto il titolo Il Bracconiere e quindi mi è venuto in mente Mario Rigoni Stern o Mauro Corona, poi con una montagna sullo sfondo ho detto benissimo, un bel libro di montagna da presentare. Invece non è vero niente, perché insomma la montagna c'entra indubbiamente, non solo perché è in copertina ma perché fa parte della prima parte della vita del protagonista, se ben ricordo, ma in realtà c'è molto molto altro, insomma altro che il libro d'alpinismo. Questo qua è un libro molto intenso, molto profondo e quindi sono molto contento di che, non di presentarlo io, ma che Valentina ce ne parli poi alla fine, perché la domanda prima che le ho sempre fatto, che le faccio anche questa volta, è come ha trovato il tempo per scriverlo, perché comunque sia insegnante, madre, fotografa, presidente di un'associazione ONLUS che si occupa dei diritti delle donne o comunque di aiutare le persone in difficoltà, quindi insomma scrivere un libro del genere che ha richiesto molto tempo, immagino. Sì, io sono una scrittrice lenta e quindi, come Franco sa, ho messo 11 anni a scrivere questo libro e nel frattempo poi ho pubblicato delle piccole storie di viaggio, tra cui Dove pensano gli asini, Un anno col baio, che sono stati comunque scritti in contemporanea, ma i personaggi hanno fatto parte della mia immaginazione a lungo. Però sentivo l'urgenza di raccontare questa storia, sia da un punto di vista delle esperienze che man mano stavo facendo come volontaria dell'associazione Falena Blu, e quelle storie con cui entravo in contatto dovevano in qualche modo trovare uno sfogo, essere narrate. E dall'altro invece mi piaceva l'idea di contestualizzare un racconto che poi sullo sfondo narra anche la violenza contro le donne, ma non solo lateralmente, non in maniera corposa. Non sono mica d'accordo su questo. No, mica tanto secondo me, però punti di vista, punti di vista. Il racconto di questi temi avviene soltanto su elementi femminili, personaggi femminili, racconti tetri, violenti. Invece spaziare, ampliando la visuale al personaggio maschile, costruire la definizione di un passato, di un successo quasi toccato ma poi perduto, ecco, mi sembrava anche questo un modo interessante di coinvolgere il lettore senza per forza sbattergli subito in faccia questo discorso della... Ma una domanda, ma la storia in 11 anni è cambiata tante volte o avevi già idea all'inizio di scrivere questa storia? Questa storia comprendeva solo i due protagonisti che si separano, e quindi Bruno e Diamante. Poi lungo il percorso ho incontrato una persona che ha vissuto una situazione di tossicodipendenza e che mi ha detto tu devi raccontare la mia storia. Quindi io ho raccolto questa testimonianza senza sapere in maniera consapevole che sarebbe entrata subito in questo romanzo. Poi invece mi sono resa conto che c'erano delle metafore che potevano essere usate sia da una parte che dall'altra, le metafore di un'evoluzione spirituale, di un'evoluzione consapevole, di un prendere in mano la propria vita e cercare di cambiare. E poiché comunque già il mio libro era ambientato a Trento, mi sembrava che la circostanza fosse rafforzata da un racconto degli anni 60-70 e quindi di questo 68 di cui ci stiamo forse un po' dimenticando, che è stata una rivoluzione giovanile mancata, dove moltissimi ragazzi hanno perso la vita a causa della tossicodipendenza. E siccome negli ultimi anni comunque questa dipendenza dall'eroina è tornata ed è un segnale allarmante di cui non ci si rende ancora conto di che valore abbia e del perché stia tornando, mi piaceva l'idea di approfondire e di inserire, insomma, perché i temi sono quelli. Adesso non vorrei svelare subito il contenuto di quella che è una morale in qualche modo del libro, e cioè il fatto che siamo tutti figli di un amore imperfetto, c'è scritto nella quarta di copertina, e quindi che le famiglie di provenienza ci condizionano in maniera molto forte e determinante. Sì, io devo dire che leggendo il libro ho fatto un pochettino un viaggio indietro nel tempo, proprio si è citato il 68, che io così un po' ho vissuto per questioni anagrafiche purtroppo, e poi anche un certo movimento femminista duro e puro agli inizi, che poi secondo me, che io ammiravo molto, devo dire, si è andato un po' perdendo strada facendo, ma che qui in realtà ho ritrovato e apprezzato. C'è un movimento femminismo o solo una mia immaginazione? No, c'è questo tentativo. Non vorrei poi avere interpretazioni personali. Di essere paritarie, di voler ambire ad essere uguali ai fratelli o uguali ai compagni, questa forma di ribellione atroce nei confronti dei genitori a qualunque costo, dove io mi faccio non è solo io mi faccio di eroina, ma io mi faccio anche la mia vita, la mia strada. A dispetto di quello che è. E qui un po' insomma la storia di figli un po' ribelli, anche se vogliamo, sì, no? Certo. Perché i rapporti tra le persone appunto mi richiamano un po' quei tempi. La storia, ma Bruno il bracconiere, in questo caso l'avrete già capito, un bracconiere di sentimenti, non è un bracconiere di animali come avevo immaginato io prima di aprire il libro. E quindi un bracconiere di sentimenti, che è un'attività ancora molto praticata, soprattutto in questi tempi, insomma, le cronache non sono avare purtroppo di queste considerazioni, dove il bracconaggio in questo caso non si limita proprio ai sentimenti, ma si limita, cioè va anche oltre, no? Si limita alle prede femminili vere e proprie. Purtroppo, come dicevo, le cronache vanno pesanti un po' su questo argomento. Bruno bracconiere, sua moglie Diamante, che è un po', che ama quest'uomo in realtà, ma che ne viene in qualche modo dominata, se vogliamo, no? Con qualche vuoto, proprio oppressa, ha dei figli con i quali ha un rapporto conflittuale, se vogliamo, da qui mi riallaccio al 68, e poi c'è questa amica Pia, che alla fine è quella che si, come dire, non dico si redime, perché non è assolutamente, non c'è niente da redimersi, ma è la persona poi alla fine più saggia del terzetto, mi pare di capire, sì. Se ricordo. E questa è la storia, è l'incrocio, la vita di queste tre persone. Dove, ma quello che a me è interessato molto, io di solito leggo i libri molto velocemente perché ne ho tanti da leggere in realtà, per mestiere, però li leggo per sapere come va a finire poi alla fine, no? Apro un libro, la storia mi piace, e allora accelero per capire come va a finire, poi se il libro mi piace allora dico: cavolo, sta finendo, devo rallentare, no, fermi tutti, perché è già finito, peccato. Allora però faccio una cosa furba, lo rileggo da capo con molta più lentezza, perché non mi interessa più come va a finire, l'ho già capito prima. Mi piace approfondire le tematiche e guardare un po' come guardo un film. Quando guardo un film, bella l'avventura, però poi per deformazioni professionali anche lì guardo, che ne so, prima la scenografia, poi stacco dalla scenografia, vado a guardare la recitazione. E qui ho fatto esattamente la stessa cosa. E la cosa che mi ha colpito molto è proprio lo stile di scrittura, che non è uniforme, ma non nel senso negativo, nel senso positivo, perché si alternano un po' gli stili di scrittura. Non so se è una scelta voluta o se è proprio inconsciamente un'evoluzione del tempo che è durata la scrittura del libro, perché per esempio all'inizio c'è finalmente c'è la montagna, c'è Bruno che fa questa esperienza in Himalaya, che vuole scalare con altri amici questa montagna tra le più alte del mondo, anche questa cronaca recentissima tra l'altro, ed è un, lui tiene una specie di diario sostanzialmente di questa spedizione, che poi non finisce bene, cioè nel senso che non riescono a salire questa montagna, e quindi c'è un'alternanza di pezzi del suo diario in cui lui racconta, è lì al campo base, sale, portano i campi un po' più in alto, c'è tutta la parte avventurosa della montagna, inframmezzata da delle lettere che delle sue prede, immagino, gli scrivano, cioè delle lettere amorevoli che lui riceve di persone che appunto lo amano o credono di amarlo, che comunque sono rimaste affascinate da lui. Poi alla fine di questa prima parte, che è molto interessante, lui rimane deluso da questa spedizione in montagna che viene portata a termine. Non vorrei raccontarvi tutto il libro, ma siamo già a pagina 67, fatevi fare lo sconto poi, perché vi ho già raccontato un pezzo. Lui non riesce a fare questa spedizione, ma lui viene anche lasciato da questa persona che gli manda lettere amorevoli, quindi torna doppiamente deluso, ed è forse questo, non lo so, lo immagino io, ma correggimi, che scatena un po' questa sua cattiveria da bracconiere, insomma, cioè si deve vendicare in qualche modo, si deve rifare in qualche modo da tutte queste cose. Ho parlato fin troppo, prego. Ti ringrazio. E sicuramente il fatto di aver scritto il libro in momenti diversi della mia vita, 11 anni, più dei 7 di un'evoluzione, no? Si dice che si cambia in 7 anni, per cui io riconosco anche un'evoluzione della mia capacità narrativa. Le ultime parti forse sono scritte meglio, anche se poi le ho messe prima e le ho messe dopo, quindi però mi piaceva anche che ci fosse una forma di scrittura acerba. Magari adesso scriverei in maniera diversa, sempre, però quello era il primo tentativo di romanzo ed era giusto che ci fosse sia questa forma un po' cruda, sia uno spaziare un po' a modi zapping. Eravamo abituati con la televisione, no? Adesso Netflix stampa tutti allo stesso orario a guardare cose precise desiderate in quel momento, ma una volta dipendevamo dalla televisione, come c'era la pubblicità si passava a vedere se c'era qualcosa di meglio, quindi eravamo abituati a questo tipo di saltellare da una programmazione a un'altra, e anche la comunicazione che abbiamo oggi attraverso i cellulari, attraverso i telefoni, WhatsApp, le chat di gruppo ci costringono a strutturare la comunicazione su livelli diversi, con moduli diversi, quindi questo modulare la comunicazione è per noi usuale. Non è usuale leggerlo tutto in un libro, però mi piaceva questa varietà di stili. A un certo punto forse ho inserito anche alcune cose di livello saggistico, perché mi servivano per far capire la contestualizzazione del personaggio in quel momento. Ad esempio, alcune cose che dice Diamante forse sono proprio di tratto saggistico, però credo che aiutino a comprendere come avviene l'evoluzione psicologica di questa protagonista. E questa è insomma la parte che in effetti devo dire che più mi ha affascinato, perché in effetti io non, roba così, non sarei capace di scriverla, ma voglio dire, non è che devo necessariamente scrivere come lei, però insomma c'è uno stile di scrittura davvero molto particolare che vi consiglio di leggere solo per quello, anche nel caso mi interessasse la storia, però è il primo libro che leggo fatto in questo modo. In effetti, come dici tu, trovo che sia un modo di scrivere moderno, è come se, cioè, ci mandassimo dei messaggini, io faccio una cosa, tu mi mandi un messaggio per un'altra cosa, quindi... E c'è un po' tutto quello che sperimentiamo nella nostra vita, dall'email all'avvocata, alla chat con il fidanzato, alla chat invece di Bruno che cerca le sue prede, poi online... Sì, c'è questa cosa molto curiosa. ...particolari... Ecco, credo che questo sia... Anch'io credo che sia uno dei valori del libro. Una delle cose che anche qui divertenti fino a un certo punto, ma che però c'entra assolutamente il problema, è una parte in cui è descritta, faccio l'esempio, caccia con tecniche illegali e vietate, lacci, vengono poi comunemente usati per catturare mammiferi, quelli per la cattura di uccelli sono costruiti con fili di nylon per pescatori, l'uccello attratto da un'esca infila il capo nel laccio teso intorno al collo, sentendosi catturato l'uccello si agita violentemente fino a strangolarsi. Questo è un piccolo manualetto di caccia, se vogliamo, ma... Il capitolo sotto è come la preda femminile, come lui usa questa tecnica di caccia per catturare una preda femminile, nel vero senso della parola. Quindi crea, ovviamente non con il filo di nylon, dei laccioli dove le prede cadono. Più avanti ce n'è un'altra e lui li usa un po' come trofei di caccia, cioè lui si vanta un po' di queste situazioni. Caccia gli animali troppo giovani, caccia con il vischio, caccia con la rete, cioè sono tutte piccoli manuali di caccia vera che usano proprio i cacciatori che vanno nel bosco, nelle foreste, che lui mette in pratica poi nella realtà, no? E quindi anche questo, al di là della storia, mi ha molto colpito sul tipo di devo dire di che avere un papà cacciatore mi ha aiutato, questa non la sapevo. Mi portava a caccia con mia sorella, poi disturbavamo troppo, siamo ha lasciato a casa. O ha smesso o l'ha lasciato a casa. Ma mi piace dire che questo libro non è insomma, appunto, solo della mia produzione fantastica, ho fatto delle ricerche approfondite. In questo caso forse con un racconiere vero che mi ha raccontato alcune storie e da lì la mia curiosità di capire come funziona la tecnica di caccia, tra virgolette, del bracconiere, perché io avevo capito che la metafora del bracconiere poteva aiutarmi a raccontare come avviene la predazione invece nelle relazioni umane. E sappiamo che le metafore nel cervello umano funzionano anche se non le capiamo, quindi un quadro con una determinata metafora il cervello lo imprime nella sua mente e lo rielabora, e queste metafore servono comunque a scardinare i nostri pensieri, a far scaturire una riflessione. Il fatto di metterli uno dopo l'altro per far capire non avrebbe avuto lo stesso effetto se io avessi messo tutta la serie di email o di chat che il protagonista manda alle sue prede con le quali poi si incontra, dei rapporti molto veloci. A seconda delle situazioni, certo, le prede sono colpite o no, insomma, quando è sicuro di avere... C'è anche qualcuno che riesce a sfuggire, se non sbaglio. Certo, fortunatamente. Esattamente, come nella caccia. Però mi piaceva questa dimensione della metafora che fosse puntualizzata con una contestualizzazione invece della realtà. E noi siamo immersi in un sistema che ha fatto della predazione il suo modo di operare, dal colonialismo, che è uno dei più grandi sistemi di sfruttamento e di predazione che gli stati hanno utilizzato nei secoli passati, allo sfruttamento delle materie prime, allo sfruttamento e alla predazione degli animali. Quante specie animali stanno sparendo, quante foreste si stanno volatilizzando a causa di questo sistema, di questo paradigma predatorio del quale noi non siamo nemmeno consapevoli, però continua a lavorare dentro di noi. E i nostri modelli sociali, i nostri ruoli sociali, i nostri stereotipi a cui ci rifacciamo sono frutto e sono figli di questo sistema predatorio. E adesso non voglio dire che il libro abbia un contenuto ambientalista perché sarebbe esagerato, però è il tentativo, è proprio quello di far capire che cosa sta accadendo a noi. Noi siamo talmente immersi che non ce ne rendiamo conto. Bruno è talmente immerso in questo modello di uomo macio, forte, che deve ottenere successo, si va a scalare, si deve raggiungere la vetta. No, come, torniamo indietro, la vetta non è nostra, insomma. Messner è il grande saggio che dice l'alpinismo deve essere anche l'alpinismo della rinuncia. In montagna si va insieme, ma bisogna anche saper rinunciare a una vetta. E soprattutto ho preso ad esempio questa scalata al Macalù perché da lì in poi, soprattutto nell'alpinismo trentino, avviene un cambiamento. E l'anno successivo, infatti, in quattro della stessa spedizione raggiungono il Macalù e riescono a scalare la montagna. Ma è un modo di fare alpinismo molto più stretto, molto più intimo, quattro amici che si aiutano, scelgono alcuni portatori, non 300 portatori come la spedizione di impianto colonialista utilizzata l'anno prima. E quindi anche lì mi sembrava che ci fosse la metafora per dire un altro modo è possibile, un modo più semplice, un modo più collaborativo, più di cooperazione per raggiungere degli obiettivi. Le cose pratiche mi interessano, volevo sapere come ti sei documentato sulla parte alpinistica, perché nella parte femminile l'ho capito, no? Con la tua fondazione avrai conosciuto persone da cui poi hai tratto storie, ma poi c'è tutta una parte alpinistica fatta bene anche quella, tanto per cambiare, niente qua è fuori posto, e quindi volevo capire come, perché questo mi interessa, insomma. Beh, diciamo che io ho respirato un po' il mondo dell'alpinismo negli anni precedenti, ho fatto la giornalista di viaggio, ho avuto la possibilità di avvicinare un po' questo mondo. Però poi ad un tratto, quando ho deciso che sarebbe stata quella l'impresa alpinistica da raccontare, ho avvicinato tre alpinisti che hanno preso parte alla spedizione. Quindi ho iniziato prima con un'intervista molto approfondita da Dan Giambisi, che è uno dei grandi saggi dell'alpinismo trentino, perché ha gestito il rifugio a Termoia per 40 anni quasi, credo, e Anno mi ha dato tantissime informazioni e gentilmente mi ha messo in contatto con Sergio Martini, che è praticamente una star dell'alpinismo a livello italiano, in quanto ha fatto tutte le 14 cime, le ha rifatte alcune in età avanzata, quindi altro che un campione olimpionico, veramente, però un personaggio di un'umiltà eccezionale, quindi avere la fiducia e la stima di Sergio è stato anche un grande onore. E con Sergio abbiamo fatto anche delle serate di diapositive, lui mi ha offerto veramente tantissimi spunti di approfondimento studiando con quale camioncino riuscivano a salire, quanto durava l'avvicinamento alla montagna. Ecco, diciamo che dagli anni 80 ad oggi il modo di fare alpinismo è cambiato tantissimo, perché oggi si arriva direttamente vicino alle vette con gli elicotteri e con gli aerei, mentre all'epoca c'era un mese e mezzo di marcia con gli zaini sulle spalle per poter arrivare, quindi era veramente un'impresa eroica. Il libro è ambientato in un periodo di... Negli anni 80, come avevamo detto. Come scalata. Sì, quindi è un alpinismo ancora diverso da quello che c'è oggi. Sì, certo. E da ultimo, ma non per ordine di importanza, Fausto De Stefani, che anche faceva parte della spedizione, che mi ha aiutato a capire un po' di più il contesto etnografico, culturale del Nepal dell'epoca, in quanto De Stefani ha questa fondazione attraverso la quale è riuscito a costruire delle scuole, degli ospedali, quindi ha una serie di iniziative in loco. E questo suo debito verso il popolo nepalese, di cui mi ha raccontato in un modo intimo, mi ha fatto capire questa realtà di queste imprese eroiche alpinistiche e con occhi diversi, e io le ringrazierò sempre. Quindi da questo punto di vista diciamo che ho fatto degli approfondimenti sul campo, qualche lettura, però è stato molto importante il loro racconto. Qualcuno mi ha dato anche dei pezzi di diario sui quali ho basato poi la mia narrazione, naturalmente. Insomma, questo per dire quanto la scrittura di un libro sia fatta di tante documentazioni. Io scrivo delle storie molto più semplici, se vogliamo, pochi personaggi con un inizio e una fine, senza tanti inserimenti, quindi è molto più facile. Qui è molto complicato prendere documentazioni degli anni 80, di un certo modo di fare le cose, di un certo modo del femminismo, di certi comportamenti tra virgolette sociali. Parlo del 68, che oggi non ci sono più, comunque sono modificati rispetto a prima, e assemblarli tutti in una storia. Perché la cosa che ho già detto un'altra volta, che mi è piaciuto molto di questo libro, è che ogni parola è al posto giusto. Cioè, nel senso che io, come dicevo prima, leggo un sacco di libri e devo dire che poi alla fine sono dei pezzi per cui uno dice vabbè, ho capito, va via, avanti, leggi velocemente, perché poi i libri sono fatti sempre, anche quelli scritti molto bene, sono fatti sempre un po' di alti e bassi. Qui di bassi non ho mai trovato, devo dire la verità, perché ogni parola è al posto giusto, e questa cosa qua mi ha fatto trovare una frase che mi sono segnato, che la userò un po' come motto, di Flaiano, che dice: la parola ferisce, la parola convince, la parola placa, questo è il vero senso dello scrivere. Cioè, per quello che dico, le parole vanno misurate e vanno messe al posto giusto, non vanno messe così nella frase a effetto, nella frase a caso. Qui frasi a effetto non ce n'è neanche una, sono tutte frasi concrete e tutte molto ben concatenate le une alle altre, quindi insomma viene fuori una storia interessante da un punto di vista sociologico, se vogliamo, da un punto di vista emotivo, e quindi è un bel libro, insomma, questo è il concetto fondamentale. Faccio tutti questi giri di parole, ma devo dire che questo è veramente un bel libro, e ve lo dice uno che, come dicevo prima, non tanto per desiderio personale ma per mestiere ne legge tanti, e quindi sono abituato a dare un po' di pareri in giro. Una cosa che vorrei sapere, una mi preoccupa un po', se l'uomo è bracconiere per costituzione, per educazione, per sua forma mentale, per istinto, e naturalmente la domanda seconda è quella se ci sono anche bracconieri donna. Anche perché secondo me forse sì, ci sono, così ho detto io, ma il loro comportamento è diverso, non è così, è più raffinato, se vogliamo, mettiamola così in senso negativo, però ovviamente. Certamente ci sono anche bracconiere donne, ma parto dalla prima domanda, e quindi eh, me la ricordo. Sto pensando. Se il bracconaggio è un fatto culturale, certo, istintivo, sociale. L'hai detto tu, ma io speravo che si capisse dal libro, perché questo. No, ma io l'ho capito, ma lo stiamo dicendo a persone che non l'hanno per ora letto. Bruno, emerge questa impronta, questa aspettativa fortissima della famiglia di Bruno, quindi viene fuori proprio il tratto della richiesta dell'essere un uomo forte, un uomo di successo, quindi questo machismo che deve essere dimostrato e la sensibilità che deve essere invece negata, repressa e piuttosto che ci siano atteggiamenti violenti. Del resto la nostra società consente agli uomini questi atteggiamenti sanguinolenti e violenti, insomma la rabbia dell'uomo è concessa se espressa in maniera anche violenta, perché dimostra una certa quantità di forza. Il bracconiere invece donna, a mio avviso, ha avuto nel passato una tecnica diversa, perché anche le donne sono state manipolatrici e in qualche modo predatorie, a volte anche predatorie nei confronti di se stesse. Ecco, per esempio Pia ha avuto nei propri confronti un atteggiamento fortemente predatorio, mentre con gli altri è sempre molto rispettosa. Nel passato, dicevo, le donne nel modo di gestire la famiglia, nel modo di pretendere determinati equilibri all'interno della famiglia che non dovevano essere spezzati mai, perché altrimenti si rovinava il buon nome della famiglia, o nell'assoggettare l'uomo a un determinato tipo di richiesta di trasformazione. Si dice nel libro: la trasformazione è l'arte segreta delle donne, quindi non solo trasformano un filo di lana in un maglione, un tessuto in un vestito, un seme anche in un bambino, ma nella capacità di cucinare è quello che servono tutti i giorni, c'è una richiesta di è una forma di potere ed è stata nel passato una forma di potere enorme. Oggi invece, a mio avviso, l'atteggiamento predatorio di alcune donne si esplicita quando si comportano come un modello maschile, dove io vorrei comunque sottolineare che la colpa non è degli uomini, non è dei maschi, ma è del modello che continuiamo a riprodurre senza renderci conto. Quindi anche Bruno non è, è un personaggio che alla fine diventa antipatico, però si ha anche una pena infinita di questa sua insofferente incapacità di gestirsi. Ma perché, una domanda che mi faccio spesso quando leggo appunto quello che succede tutti i giorni ormai purtroppo nelle cronache quotidiane, si continua a parlare di questo argomento ma non si riesce mai a cambiare, cioè la situazione non cambia poi alla fine, se ne parla da anni ormai, dal femminismo in avanti, ma insomma alla fine poi se ne parlava anche prima, però non si riesce a scalzare l'uomo da questa posizione. Secondo te perché? Cosa bisognerebbe fare, oltre che parlarne ancora di più, evidentemente? Io sono sempre per lei, ho scritto un libro sull'argomento del parlare e non parlare, quindi figuriamoci. Io credo che dobbiamo imparare ad educarci da soli, come adulti, e aiutare i bambini ad avere un'educazione affettiva, perché nel momento in cui la società cerca di essere paritaria tra uomini e donne, ma non lo è. E quindi invece portare l'educazione alla parità nelle scuole fin da piccoli, fare un'educazione all'affettività che insegni come lasciarsi, come volersi bene. E questi ultimi anni da dopoguerra in poi sono anni di un'educazione all'affettività che noi ci siamo costruiti sulla nostra pelle senza sapere, perché comunque prima le famiglie dovevano stare insieme. È arrivata la legge sul divorzio, però c'è anche stato un diritto di famiglia che è del 75, il diritto di famiglia che utilizziamo. Quindi poi si innescano tutta questa serie di contraddizioni, a partire dal fatto che alcune donne, anche loro bracconiere, predatorie, magari con gli avvocati giusti, riescono a mettere in ginocchio un uomo che deve mantenere un livello di vita che non è più proponibile. e quindi queste stanno a casa senza lavorare perché tanto c'è qualcun altro che lavora per loro. Questo è ingiusto, non solo è... Dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di uomini, magari aiutati anche dal sistema che protegge questa forma di predazione, che nascondono quanto guadagnano, che non mantengono i figli, che sono violenti a parole ma anche nei fatti. E quindi io trovo che ci sia bisogno di educazione all'affettività, alla parità nelle scuole, un'autoeducazione nostra, una presa di consapevolezza, ma anche un cambiare questo diritto di famiglia italiano che non se ne può più, perché si generano una serie di sofferenze e di traumi dai quali poi si fa fatica a uscire. Indubbiamente ho fatto, sì, come dici tu, educativo, e mentre tu parlavi riflettevo a, ho fatto un incontro pochi giorni fa con una psicoterapeuta illustre, si parlava di bambini, educazione eccetera, e una cosa che mi aveva colpito molto, lei aveva fatto degli studi dove i bambini più pronti ad affrontare il futuro, parlo nel senso generale evidentemente, non sono quelli che abbiamo noi a scuola, sono quelli che vivono nelle comunità, cioè in un panorama internazionale quelli più pronti, ma che cresceranno meglio, sono quelli che vivono al momento, che ne so, nei villaggi africani, con i nomadi, in Mongolia, in Afghanistan, in questi piccoli villaggi, perché c'è ancora forte il senso della comunità. Cioè loro sono educati non solo dai genitori, ma sono educati anche dal capovillaggio, dal santone, dal pastore, da tutti quelli che li circondano. Quindi loro adesso fanno una vita difficile, diciamo, perché non hanno ovviamente tutto quello che abbiamo noi qui, ma si presume che siano le persone più aperte per il prossimo futuro, ed è una cosa secondo me affascinante. Se penso che io, mio vicino di casa, buongiorno, buonasera, siamo lì da 30 anni, non abbiamo praticamente nessun rapporto, e poi vai appunto, partecipi a questi viaggi che fai anche tu, partecipi a queste camminate con altri, io per lavoro sono andato un po' in giro per il mondo quando facevo giornalista, e ci si trovava meglio, le persone erano meno violente, meno intossicate quando si stava nelle piccole comunità che non quando si stava per esempio nelle grandi città. Quindi un fatto proprio educativo e un fatto anche ambientale. È anche vero che adesso abbiamo altre forme di fare comunità, di queste piccole tribù anche virtuali che si formano, possono comunque essere solidali, possono essere. Il punto centrale è la materialità, cioè diamo troppo valore alla materialità, quindi anche i nostri figli sono dei piccoli principi, sono dei famosi figli dei genitori elicottero, dove questi genitori con l'elicottero anticipano tutti i problemi dei loro bambini. E la tecnologia non aiuta in questo caso. No, certo, però fare però comunità ci siamo messi male. Che sia su un piano intellettuale, che sia sul piano di condivisione sportiva, di condivisione religiosa o di condivisione, che so, musicale, creare delle comunità è diventato urgente, solo che lo stiamo disimparando. Raccontaci qualcosa magari di Falena Blu, che sono interessato a sapere cosa fate, cosa fanno. Abbiamo iniziato facendo solo un percorso di ceramica presso il Marti Rovereto. Proporre alle donne queste attività di manipolazione dell'argilla è molto interessante, perché l'argilla riesce a portare fuori, quindi assorbe quelle che sono le potenzialità inespresse, le tensioni, ma anche i pensieri, le intenzioni. Quindi poter trasferire a un pezzo d'argilla qualcosa che si è vissuto, che magari è difficile da narrare, ha un aspetto fortemente di sollievo. E nello stesso tempo produrre un'opera d'arte per la donna è qualcosa di interessante. Utilizzo in questi laboratori la tecnica di Lucio Demetrio, che è una tecnica di autobiografia narrativa, solo che lo faccio senza l'utilizzo della parola, quindi la donna non racconta quello che ha vissuto, ma lo trasferisce a questa opera d'arte. Le opere vengono poi esposte presso l'area didattica del Marte, anche questo fa sentire le donne parte di un patrimonio culturale. Prima le donne hanno potuto partecipare a delle visite guidate presso il Marte, quindi cominciano a respirare quest'area di cultura, di stimoli, che le fa uscire insomma anche dalla situazione a volte molto buia e oscura nella quale stanno affrontando la vita in quel momento, perché le donne che raccogliamo noi generalmente arrivano da case rifugio, appartamenti protetti dove vengono portate per proteggerle da situazioni molto gravi, e altre invece magari sono in cooperative di recupero per cui sono già in un percorso avviato di rivalutazione e rinnovamento della loro vita. Quindi diciamo che partiamo dal concetto che l'arte e la bellezza possono aiutare a portare sia consapevolezza che un sollievo all'anima. Poi pian piano siamo sempre state più coinvolte in attività di formazione, quindi già il primo anno era venuto Iacona a fare un intervento, il secondo anno è venuta Michela Murgia, il terzo anno è venuta Michela Crisma e Maura Visiti, che ha collaborato con Serena Dandini alla scrittura di quel libro sulla violenza contro le donne. E negli ultimi anni anche abbiamo avuto dei personaggi sempre molto interessanti. L'anno scorso è venuta Alexandra Redkay dagli Stati Uniti, una sociologa che si sta occupando di educazione ai sentimenti e ha incontrato 120 ragazzi al Museo di Trento. Quindi diciamo che la nostra parte formativa adesso sta diventando sempre più importante. Veniamo chiamate l'8 marzo o il 25 novembre per fare interventi anche nelle scuole. Che secondo me è la strada più principale da perseguire. Sì. Per la prevenzione, sì. Ok. Domande? Non ce ne sono mai, anche quando ci sono 50 persone, quindi non vi preoccupate. Non ci offendiamo. Grazie dell'attenzione. Più che altro, a me mi interessava sul fattore del benessere. Parlato praticamente di un qualcosa di plastico per catturare gli uccellini. Sì. Grazie. Sapevo che il vero bracconiere utilizza il crine del cavallo, è possibile? Guardi, fino a questo punto non sono esperta, perché mio padre era cacciatore ma non bracconiere, per fortuna. Però ecco, regione ha le sue, poi figuriamoci. Sì. Le tecniche descritte nel libro sono però una metafora nei confronti dello sfruttamento, della predazione delle donne. Quindi è una metafora quella del bracconiere. Però trova appunto qualche piccola informazione. Ma sono andata a curiosare su internet, c'è tanto, si può trovare. Se non è fatto dire il giornalismo, però si utilizzava il crine di cavallo. Per gli uccellini? Esatto. Si faceva il nodo, si appoggiava. Sì. Perché è più facile avere il cavallo che il nylon, allora probabilmente, probabilmente sì. Diciamo, si usavano prodotti naturali, mettiamola così, sotto questo aspetto. Bene, se non ci sono altre domande o chiarimenti. Per chi vuole acquistare il libro adesso? Ovviamente il libro è qui. E adesso, a parte il mio ruolo di presentatore, ma devo dire, è un libro molto affascinante e molto. Valentina l'ha scritto non certo per un'esigenza letteraria, perché altrimenti non ci avrebbe messo 11 anni a scriverlo, se la sarebbe cavata in molto meno tempo, ma l'ha scritto proprio perché è andata nella profondità, è andata a scandagliare un po' l'animo delle persone, e quindi insomma è emersa questa figura del bracconiere che condivido, non la figura, condivido naturalmente, ma lo scandaglio, se vogliamo. E poi fa emergere queste due donne forti che prendono decisioni importanti nella loro vita, e alla fine le vincitrici della sfida sono loro. Quello che se la passerà male è il bracconiere. Grazie e buona serata. Grazie a Franco Fattori. Ciao, figura.